Allora, noi presentiamo in anteprima qualcosa che è più simile a un esperimento che a una performance, nel senso che stiamo testando un po' le basi di una modalità compositiva di un lavoro che avverrà in realtà nel futuro, quindi stiamo mettendo insieme gli elementi e vediamo cosa succede. Diciamo che sto mettendo insieme degli elementi di natura molto diversa e che vanno appunto dalla coreografia alla produzione di suono, e a qualcosa che ha a che fare col manufatturiero, nel senso che ci sono delle signore che fanno del lavoro con la lana in diretta e arti visive con Valentina Palmisano, e poi ci sono la presenza di piante e animali rari. E quindi non volevo farti svelare troppo, però questo è stato già molto dal punto di vista emotivo e dalla curiosità che si scatena. Dove sarà tutto ciò? E questo sarà nella ex chiesa di San Mattia, in via Sant'Isaia 14 a Bologna, il 6 e il 7 settembre, in doppia replica, alle 20.30 e alle 21. Per quanto riguarda altre collaborazioni che possiamo aggiungere? Guarda, io sono felicissimo perché Danza Urbana ci segue dall'inizio del mio percorso nella coreografia, e quindi insomma sono dei partner eccezionali perché veramente danno carta bianca su qualsiasi tipo di invenzione o di esperimento, appunto come in questo caso. Lavorare, che emozioni, non dico al pubblico, ma a te, ha portato in questa specificità? Allora, questo io non lo so ancora, nel senso che il lavoro non è stato costruito a tavolino, al di là della coreografia che invece è stata costruita, ma gli elementi che mettiamo insieme si incontreranno il giorno stesso, per cui ci interessava molto esperimento in questo senso, nel senso che lascia una grossa porzione, sì, degli avvenimenti al caso. E questo insomma ci dà molta emozione, ovviamente, perché prefiguriamo quello che può accadere, però ecco, appunto, come nel caso della presenza di animali, assolutamente non è prevedibile cosa faranno. Ce lo racconteremo, e io ti ringrazio tanto per questa conversazione. Grazie Fabrizio. Grazie a te.